parola che il Signore pronunciò contro Babilonia, contro il paese dei Caldei, per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo tra le nazioni, banditelo, elevate un vessillo, banditelo, non occultate, dite: è presa Babilonia. Si vergogna Bel, infranto è Marduk, vergognose sono le sue immagini, infrante sono le sue abominazioni. Infatti sale contro di essa una nazione dal nord, la quale ridurrà il suo territorio al luogo desolato, e non vi sarà più chi abiti in essa. Dall'uomo al bestiame tutti fuggono e se ne vanno. In quei giorni ed in quel tempo, oracolo del Signore, verranno i figli di Israele insieme ai figli di Giuda. Avanzeranno camminando e piangendo, mentre cercheranno il Signore Dio loro. Domanderanno di Sion, verso la quale volgeranno i loro volti: venite, aderiamo al Signore con un patto perpetuo che non sia mai più dimenticato. Il mio popolo è stato un gregge di dispersi. L'han fatto deviare i suoi pastori. L'avevano disperso sui monti. Andavano da monte a colle, dimentichi del loro ovile. Chiunque li incontrava li divorava, mentre i loro nemici dicevano: noi non commettiamo delitto perché han peccato contro il Signore. Pascolo di giustizia e speranza dei padri loro è il Signore. Fuggite di mezzo a Babilonia e dal paese dei Caldei uscite. Siate quali caproni dinanzi al gregge. Sì, ecco, io sto per suscitare e far ascendere contro Babilonia un'assemblea di nazioni grandi dal paese del nord, e si schiereranno contro di essa. Da allora sarà presa. Le loro frecce sono come eroe esperto, non ritornano in vano. Saranno i Caldei una preda. Tutti i suoi depredatori si sazieranno. Gioite e tripudiate, saccheggiatori della mia eredità. Sì, saltellate qual giovenca che trebbia, e nitrite come stalloni. Si vergogna assai la madre vostra, arrossisce la vostra genitrice. Ecco, essa è l'ultima nelle nazioni, deserto, arsura e steppa. Per l'ira del Signore non sarà abitata, sarà un luogo desolato tutta intiera. Ogni passante per Babilonia stupirà e fischierà su tutte le sue ferite. Schieratevi contro Babilonia all'intorno, voi tutti, tiratori di arco, bersagliate, non risparmiate freccia, perché contro il Signore ha peccato. Gridate contro di essa all'intorno. Essa alza la sua mano, cadono i suoi bastioni, rovinano le sue mura. Sì, vendetta del Signore è questa. Vendicatevi contro di essa, come ha fatto, fate ad essa. Sterminate il seminatore da Babilonia e chi impugna la falce in tempo di messe. Dinanzi alla spada affilata ognuno al suo popolo torni ed ognuno al suo paese fugga. Pecora errante era Israele, i leoni l'inseguirono. Primo l'ha divorata il re di Assiria, poi Nabucodonosor, re di Babilonia, ne ha stritolato le ossa. Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, sto per castigare il re di Babilonia e il suo paese come ho castigato il re di Assiria. Io ricondurrò Israele al suo pascolo, e pascolerà sul Carmelo e nel Basan, e per i monti di Efraim e del Galaad sazierà il suo appetito. In quei giorni e in quel tempo, oracolo del Signore, si ricercherà l'iniquità di Israele, ma non si troverà, e il peccato di Giuda, ma non si troverà, poiché perdonerò a chi farò restare. Sali contro il paese di Merataim e contro gli abitanti di Pecod. Rovina e fai sterminio dietro di loro, oracolo del Signore. Fa tutto come io ti ho comandato. Rumore di guerra c'è nel paese e disastro grande. Come è rotto e spezzato il martello di tutta la terra, come è divenuta desolazione Babilonia tra le nazioni. Ti ho teso un laccio e ti ho presa, Babilonia, e tu non lo sapevi. Fosti trovata ed afferrata, perché contro il Signore ti sei irritata. Ha aperto il Signore il suo arsenale ed ha estratto gli strumenti del suo sdegno, perché ha un dovere da compiere il Signore, Dio degli eserciti, nel paese dei Caldei. Venite ad essa dalle estremità, aprite i suoi granai, ammucchiatela come covoni e fate sterminio, non vi sia per essa un resto. Uccidete tutti i suoi tori, scendano al macello. Guai a loro, perché è giunto il loro giorno, il tempo del loro castigo. Voce di fuggitivi e di scampati dal paese di Babilonia si ode per annunziare in Sion la vendetta del Signore Dio nostro, la vendetta del suo tempio. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti i tiratori di arco, accampatevi contro di essa all'intorno, non ci sia per lei fuggitivo. Retribuitela secondo il suo operato, secondo tutto ciò che ha fatto, fate ad essa, poiché contro il Signore è stata insolente, contro il Santo di Israele. Perciò cadranno i suoi giovani nelle sue piazze, e tutti gli uomini di guerra periranno in quel giorno, oracolo del Signore. Eccomi a te, superba, oracolo del Signore, Dio degli eserciti. È giunto finalmente il tuo giorno, il tempo del tuo castigo. Inciamperà la superba e cadrà, e non avrà chi la rialzi. Io accenderò fuoco nelle sue città e divorerà tutti i suoi dintorni. Così dice il Signore degli eserciti. I figli di Israele sono oppressi insieme ai figli di Giuda, perché tutti i loro deportatori li tengono strettamente, rifiutano di rimandarli. Ma il loro Redentore è forte. Dio degli eserciti è il suo nome. Certamente difenderà la loro causa per tranquillizzare il paese e far tremare gli abitanti di Babilonia. Spada sui Caldei, oracolo del Signore, e sugli abitanti di Babilonia, sui suoi principi e i suoi sapienti. Spada sui bugiardi che impazziscano. Spada sugli eroi suoi che si spaventino. Spada sui suoi cavalli e i suoi carri e sulla mescolanza di genti che è in mezzo ad essa, che diventino donne. Spada sui suoi tesori, che siano depredati. Spada sulle sue acque, che secchino. Sì, è un paese di idoli e per gli orrori smaniano. Perciò vi dimoreranno animali del deserto e sciacalli. Vi dimoreranno gli struzzi. Così non sarà più abitata in sempiterno né popolata di generazione in generazione. Come Dio sconvolse Sodoma e Gomorra con i suoi vicini, oracolo del Signore, non vi abiterà alcuno e né vi dimorerà figlio d'uomo. Ecco, un popolo viene dal nord, una nazione grande e re potenti si svegliano dalle estremità della terra. Essi impugnano arco e lancia, sono crudeli e non hanno compassione. Il loro grido è come mare in tempesta. Cavalcano sopra cavalli e sono pronti come un sol uomo alla battaglia contro di te, o figlia di Babilonia. Di loro ha avuto notizia il re di Babilonia e son cadute le sue mani. L'ha invaso l'angoscia, dolore come di partoriente. Ecco, sale come leone dalla boscaglia del Giordano verso un pascolo rigoglioso. Sì, improvvisamente io li fugherò di là e porrò su di esso il mio eletto. Chi, infatti, è come me e chi può sfidarmi? Chi è quel pastore che può starmi di fronte? Perciò udite il consiglio del Signore, ciò che ha divisato contro Babilonia e i progetti che ha fatto contro il paese dei Caldei. Trasceneranno via i piccoli del gregge, sarà devastato dietro di essi il pascolo. Per lo strepito della presa di Babilonia trema la terra e il loro grido si ode tra le nazioni.